guardi da così lontano, nessun vuoto sarà il vuoto che manca. Mi devi entrare e chiedere il motivo e continuare anche se a volte stanca. Non ho imparato tutto, non c'è tempo e non lo impari neanche tu sicuro. È un mare grosso andare avanti vivo e spegnere viene quasi istintivo. E invece voglio ancora, combatto l'onda nera, magari dalla sponda cammino sopra il ciglio. Scesa, mi guarda che ha capito e sa che c'è, e ora guarda avanti insieme a me. Se tu mi parli da così lontano, nascosto dietro la tua media chiara, devo fidarmi delle tue parole, poi mi delude la tua birra amara. Ti ho raccontato tutto, non c'è tempo, si deve vivere di stare meglio. C'è mare grosso e sono appena sveglio, stavolta è un giorno tutto mio sicuro. E ancora voglio ancora, davanti immagino.